Iowa City. Mai so goodbye. Per la 48 la parola di voi te lo prendiamo. collezione. Allora, di 48 ne ho due, quello che sto usando adesso è... Aspetta un attimino che mi sto accecando qua. È il Multi Plus, e sopra la testa ho il Multi Lexcel, quello che fa 12-24. Quindi c'è 4-48. 2-48, un 100 e un altro birichino, questo alla mia destra. Una volta mi hanno fregato, la seconda non mi fregano più. Cioè, mi sei caduto da camion. Scusa, non c'è anche se dentro al deposito. Ma infatti hanno spaccato i vetri, hanno rovistato tutto quello che c'era da rovistare. Ascolta me invece, adesso questo è il radio, ma quello che mi dura può lavorare e poi dovete più farle. 4.001, come ho detto ieri, chi la vuole viene se la prende, il problema non ce n'è. Ho capito, ma in vendita come funziona? No, non è in vendita, chi la vuole viene se la prende. Quanta parte può servire a me? Ok, vieni e te la prendi, non c'è problema, Massimiliano. Io ieri sera l'ho anche detto, chi vuole viene e se la prende. Tanto per tenerla ferma lì è giusto che con l'antenna si usi e venga sfruttata, ecco. No, e come si chiama la mia? Quella che ho montato sulla barretta. Vieni le C1000, così si chiama. Sempre a due, che l'ho dovuta sollevare tutta, è quasi al limite. Infatti quella brugolina che c'era sotto, che c'è nell'antenna, l'ho dovuta passare sopra. Thank you. già lo troveremo il sistema, ma ci mancherebbe altro. Thank you. magari sto pensando che non abbia, messo male qualcosa io lì sotto. Diciamo il pezzo di su che dà la capota la guarnizione. Però come ho detto, mettendola così la guarnizione non passa bene via l'acqua. Invece poi controllandola bene, con la boccoletta la devo entrare da sotto dove c'è il portalampada. Già ce l'abbiamo, ma niente di strano che non ti dico domani, in settimana posso rimettere, posso mettere di nuovo questo in macchina e vedere anche lo stabilimento, nel piazzale dello stabilimento. Anche perché ti devo dire che come cose non ti schiava nemmeno, perché in genere quando hai stazionari e quando vai con la portante ti fischia la cosa, l'apparato fischia. Sulla macchina tua e vedere se cambia, così almeno ci rendiamo conto se dipende dall'interno, così non stiamo a smontarla, capito? Si può fare anche così, non c'è problema, tanto un attimo. Per vedere se dipende dalla massa interna o se dipende praticamente dal coso, dalla massa. Tutti siamo aperti a tutte le soluzioni, perché quell'antenna deve sparare come un fucile mitragliatore deve essere quell'antenna. E io c'ho anche il tipo vecchio, quella che spara di più, c'ho quella proprio modello, le prime PLC 1000. Quello è il tipo vecchio già. È quella che fa meglio. No, quella che c'è lui dovrebbe essere il tipo vecchio. Meglio così, più sparo. È perché le nuove che hanno fatto non sono come quelle di prima, secondo me. Quelle di prima, quelle tipo vecchio, sono a livello della 2001. È buono, e dico, più dovrebbe passare il tempo con tutte queste innovazioni, con tutte queste storie, che invece a quanto pare ci stiamo accorgendo che la roba vecchia è sempre la migliore. È quella che dura di più, soprattutto. E infatti, ma con tutte le cose, sia dalle antenne che dalle macchine, che da tutto. Dicevano che nelle macchine stavano facendo questi miglioramenti antirruggine, cosa non ho visto le macchine tutte spellate a portotto, poi una cosa allucinante, ne ho visto parecchie senza, completamente spellate dal trasparente. La salsedine è terribile. Macchine nuove, tutte a macchine, tutte a chiazze grosse. Lo so, già si potevano assomigliare alle macchine di quando eravamo ragazzi noi, che c'era più pesava, più la vernice che la macchina. Che roba di spessore di vernice c'è. Adesso è tutto al risparmio. Adesso se tu, a parte la vernice, vedi anche la carrozzeria di certe macchine, se ti appoggi la macchina anche lo sportello della macchina. Perché devono essere fatte così. Non lo so, dovrebbero essere fatte così e ci sarebbe voluta una legge che le facesse, cioè che possa imporre alle case automobilistiche un minimo di spessore di lamiera. Ma se tu secondo che macchina vai a vedere, ma anche la bandola se la lavi con la spugna, secondo come al centro capoppo a giocare a mano e tanto bene? Ma devono essere fatte così, devono essere lacche, per farle con quella maniera purtroppo tocca usare quei sistemi di carrozzeria. Tutte le case automobilistiche sono così, addirittura ci sono alcune macchine che i paraurti, la bianchetti di davanti ce li hanno in coso, come cavolo si chiama, nel retrovisore. Ho visto anche la Clio, c'è uno che ce l'ha qui, e ho visto che c'aveva un buco sopra, e niente, quello è plastica, ma quello sicuramente lo stanno facendo per questione di alleggerimento, ma tanto più che gli attaccano con tanto più probabilmente con queste macchine. Ma passa troppo, non ho sentito più. verso gli obiettivi. E questa prova da me ce la fa. Ma con te non ce la fa, ma così si muove in ginocchio. Anche Giuseppe passava, anche se un po' lo disturbava, ma passava. No, no, ma non te no, non ci stanno più. No, non è che lo trovo. E mi aveva la buccia burata. Non possono sopportare la tranquillità delle persone, cosa ci vuoi fare? Vabbè, bravo, perché se ti becco sono cavoli tuoi. Dai, allora mette la testa alla portante, vediamo un pochino se riesci a passarlo. Dai, dai, metti la testa che voglio vedere se riesci a passarmi. Vediamo se riesco a passarlo così. Su, andiamo. Sì, ma secondo te riesco a passarlo? Vediamo un pochettino. Su che andiamo, vai così. Oh, Pepa, zona mia, comunque, vi stavo ascoltando, è un segnale fortissimo, la zona mia, schiacciati comunque. Due segnali comunque, uno è fortissimo, l'altro un po' di meno. 9:10 più della mia postazione. Guarda, passa anche a te, Giuse, che sei 9:30 abbondanti, ti passa anche a te. Se non ti passa però, Robè, non ti passa. Non mi passa? Negativo. Adesso ha passato, perché si accorge dell'errore che ha fatto. No, adesso è un altro segnale, sono due segnali comunque. E adesso faccio altri segnali. Si è accorto della stupidata che ha fatto, scusa, da 9:30 è sceso a 9:10 perché mi ha detto che anche non ti passava, subito ha passato. Bene, avanti, Gianni, avanti. Che cosa fa? Ciao Roberto, mi hai sentito anche a te, dai. Certo, sì, no, sono al computer, continuate, mi sta ascoltando, sto facendo cosa al computer, buon proseguimento, dai, se mai entro dopo. Tu dai un segnale con questa radio? A te? K. 9:25. K, già va bene. Va bene. Come acquisti stai facendo? No, vedo che vendendo le foto fatte su web, ci sono le immagini allucinanti, cose. Anzi, ho iniziato a prendere un paio, ne avevo già girato almeno 200 adesso, sto andando una dietro l'altra. Vabbè, divertiti allora. Avanti, Antoine, ci sì. Avanti, chi è? Sa non ho fatto la Roma oggi. Però me la sta giocando adesso, inizia. Anzi, cos'è? Le 21:30, cazzo con gli scattali si è fatto. Aspetta, hai finito il primo tempo adesso sicuramente. Un secondo che stava parlando uno sul fondo. Avanti. K Matteo, da dove stai modulando? Che sei piccolino. A favorino dai. Io sto modulando da Afghanistano, Afghanistano, provincia di Lecce. Provincia di Lecce, K dai. Un super salutone dalla Sardegna, città di Sassari, in compagnia di Pierpaolo, Giuseppe Tornado e tanti altri amici, dai, Antonio, Bombolo. Avanti Tornado, se lo ascolti la ricordi. Campa di positivo, salutoni da parte mia all'amicone di Lecce. Sassari risponde alla chiamata dell'amico K. Avanti vola 1 per l'amico di Lecce.

faccio vedere la luce, non ci vedo più. Ora. lo voglio più toccare, era così. Vabbè, abbonerà forse un casino. Io non mi ricordo come facevo. Vediamo un po' così. La retroresina, materiale che non esiste nella faccia della terra, è vero? Ma che cosa va a dire di cui? hanno intrapreso questo discorso di merda. Radio. Ho detto che tutto è partito da un autoradio. Autoradio. Ho visto anch'io a abbastanza disperato, poveraccio. Ascolti, a Giulio che cavolo capa fuori. Sicuri sembrano che sono fatti. E coi tempi che corrono. Comunque veramente, non ci sono più i gatti che c'erano una volta in giro, eh. Ah, vero me. Già vero, la gatta deve trovarmi. Dai. In acciaio, metto guardo in chili. Sì, ti ho portato la lavoro, con la bombola in mano. una sulla scala sopra un tetto. Sotto la mantova. K ha cantato una mantova. Dice, ma chissà, non è una liana. Guarda. No, per trovare una mantova vecchia. La monto lì in piazza Legini, la prendo con una mano e poi stettiamo a posto. Possiamo andare a prendere la mantova turbo di Mario? Riusciamo a tirarla? E allora è fatta, prepara la cimetta, andiamo, la prendiamo e torniamo. Su. E chi è questo che sta chiamando? Chi è avanti? Ma è un robot con Luis. Ma non è che si può la tempare sulla terra? Ma non penso, credo che stia arrivando di splatter e qualcosina, eh. Basta, ma che lo sei. Signori, io sono le 10:30. Domani mattina bisogna essere in perfetta forma, ce ne andiamo tutti quanti ad Alghero. E mi sa che mi prendo la via del letto io, pian pianino. E su che andiamo? Oh, io, mamma mia. Cavolo, quell'uscita di oggi mi ha provato un po', eh? E anche già, già vicino, là. Sì, già è vicino, non è per quello, no. E che domani avendo la macchina qua su Sassari devi fare Alghero, poi rientri devi andare a Colo, poi rientri devi andare a Ittiri, poi rientri devi fare consegne su Sassari, vai, tira, molla, vai, casa è peggio di quando sei fuori. Beh, certo, perché fuori ci metti i soldi per tornare, però già è vero. E poi Alghero mi ha trovato il parcheggio, io. E infatti poi la via dove devo andare, ma lascia perdere, dai. Meglio soprassedere, se no guarda, mi adiro già da adesso, prima di iniziare la giornata di domani. Per carità, vabbè, speriamo che vada tutto bene. Avanti, te ne stai andando a Cappa già, io me quasi quasi mi sdraio un po' perché sta cominciando a sentire i battiti nella schiena. Io con la schiena, grazie a Dio, già sono abbastanza messo male. Quindi adesso ci provo, mi sdraio e vedo un pochino, se riesco a guardare un pochino di televisione, bene, se no mi sono tutto e chi si è visto si è visto. Vabbè, buonanotte, ci sentiamo, me ne vado anche io, chiudo i battenti, saluto tutti i cordiali e ti auguro un buon lavoro a tutti. Ciao Antonio, c'è per Paolo, anche io faccio ancora di là. Caprai, buonanotte Giuseppe, buonanotte Gianni, ce la riascoltiamo tutte le prossime, cambia, buon lavoro per domani, ciao, buonanotte a tutti. Ciao. Ciao, buonanotte Gianni, buonanotte anche a Giuseppe. K di positivo, ciao Pierpaolo, ciao Antonio, buon trabacco per domani e buon tutto. Comunque, in una maniera o nell'altra, ce la riascoltiamo senza mancare. Ciao e buonanotte. Ciao.